cioè Cartesio che a un certo punto, quinta o sesta meditazione, si trova un po' inculato nel suo sistema e per giustificare il mondo deve fare due prove dell'esistenza di Dio, in sostanza, perché gli manca il nesso per ricollegare l'io al mondo. La ragionavo un po' così. Allora, da una parte c'è un io senza mondo, cioè c'è un io, diciamo, trascendentale, non trascendente, trascendentale, che deve produrre il mondo. Dall'altra, polo opposto, c'è un mondo senza io. E cioè, diciamo, il mondo delle scienze dure, che non presuppone un io costituente. Allora, ci manca un po' la via di mezzo. Per come la interpreto io, bisognerebbe rileggere il passaggio, è un po' il posizionamento critico. Cioè, che ti fa dire, esiste un mondo. Io sono all'interno di questo mondo, sono un composto di, diciamo, vita mia individuata, attraversata da flussi pre-individuali, tutto quello di prima, e io mi posiziono all'interno di questo mondo, ecco. E quindi non sono io che creo il mondo, Cartesio, non è il mondo che crea me, ma io, Merleau-Ponty, sono un'esistenza situata. Così, leggi un po' da Merleau-Ponty. Ah, Merleau-Ponty. E poi rileggiamo anche l'io senza mondo. Però ecco, Favino dice la sua, cioè, in primo luogo pre-individuale, allora, che cosa consiste la realtà pre-individuale, il mondo, che sta alla base dell'individuazione, molte e tutte legittime sono le risposte possibili. In primo luogo, pre-individuale è il fondo biologico della specie, voilà, cioè gli organi sensoriali, l'apparato motore e le prestazioni percettive. È molto interessante quanto afferma a tal proposito Merleau-Ponty. Io non ho coscienza di essere il vero soggetto della mia sensazione più di quanto abbia coscienza di essere il vero soggetto della mia nascita e della mia morte. E poi, sempre virgolettato, la vista, l'udito e il tatto con i loro campi sono anteriori e rimangono estranei alla mia vita personale. La percezione non si fa descrivere con la prima persona singolare, io. Non è mai un io individuale che sente, vede, tocca, ma la specie come tale. Alla sensazione si addice piuttosto l'anonimo pronome sì. Si vede, si tocca, si sente. Il pre-individuale insito nella sensazione è generica dotazione biologica, non suscettibile di singolarizzazione. Questo è Merleau-Ponty? Cioè Firno che parla di Merleau-Ponty. Ah, ecco, ok. I virgolettati sono di Merleau-Ponty. Lui la utilizza. Però si dice che c'è un fondo biologico. Perché sta cosa del sì è fondamentale. Cioè il sì è stato, cioè, che in francese è on, no? Sì. È stato il passaggio. C'è un'intervista di Foucault, del Foucault strutturalista cattivo come una biscia, che dice le je a explosé e è stato sostituito dall'on. L'io è scomparso, è esploso. E con chi ce l'ha? Ce l'ha con Sartre e Merleau-Ponty, chiaramente, cioè il primo Merleau-Ponty, e ce l'ha con, adesso non è che mi ricordo benissimo, però probabilmente c'è la critica della ragione dialettica di mezzo, cioè in sostanza Sartre dice il mondo si la coscienza interiorizza il mondo e si esteriorizza nella storia, ok? Ma dobbiamo interpretare, o è chiaro? Chiaro, ecco. E quindi c'è un po' questa azione della coscienza immanente alla storia che produce la storia. E invece gli strutturalisti e il Foucault di quell'intervista strutturalistissimo, post le parole e le cose, dice non è vero, non è la coscienza che fa la storia, questo io non c'è più, esiste un on, esiste un sì, cioè esistono, col lessico di questa sera, flussi di particelle pre-individuali che i corpi incarnano, embody, nel senso io attivamente incarno, cioè interiorizzo, cioè insomma, io sono attraversato da queste cose che poi si riflettono nella storia, però cioè io non è niente, nel senso io dal mio punto di vista lo sono, però io visto dall'alto non lo sono, nel senso il formicaio e l'umanaio, no? Cioè le formiche che non le distingui l'una dall'altra, ma neanche gli uomini. Perché? Perché c'è un sistema, il punto è il sistema, cioè le cose che accadono in questo piano di immanenza che è il sistema composto da singolarità, ma queste singolarità non sono niente. No? E Virno sta dicendo un po' un punto di vista a metà fra i due, probabilmente. Sì, che vabbè, poi vabbè. Toma il tuo posto e le parole e le cose, quindi tutta la roba del soggetto che viene. Cioè, le ultime parole delle parole e le cose, no? L'onda che cancella, non guarda, giusto per darmi una. Il senso è quello. Cioè, le parole e le cose, dice chiaro, allotropo empirico trascendentale, cioè l'esistenza umana empirica è surdeterminata da un codice, da un sistema trascendentale, che ti dice che quello è uno sgabello e quella è una porta. E tu sei una funzione di questo sistema. Lacan, insomma, vabbè. È un sistema morale. Vabbè, allora finisco qua. Morale, sì. No, morale. Morale? Secondo me no. Aspetta, facciamo finire. Morale sì, ok. Morale sì. Morale. Finisco questo. Morale mi. Vai alto. Quindi prima nozione di preindividuale, il fondo biologico. La seconda, la lingua storico-naturale condivisa da tutti i locutori di una certa comunità, quello è il preindividuale. La lingua è tutta di nessuno. Anche nel suo caso non vi è un io individuato, ma un sì, si parla. L'uso della parola è dapprima interpsichico, sociale e pubblico. Non esiste in nessun caso, tantomeno nel caso di Leonardo, un linguaggio privato. È a tal proposito che si comprende tutta la portata del concetto di intelletto pubblico, generale intellect. Questa è sussurra. Sì, infatti. Questo vabbè, è lui è un filosofo. Lui è un filosofo del linguaggio, Virno è un filosofo del linguaggio. No, cioè, questo è quello che si diceva quando si parlava della struttura, no? Esatto. Cioè, è il sistema che determina, diciamo, l'essenza, anche se è sbagliata. Cioè, è la langue che determina la parola. Infatti, poi utilizzavo questi termini. L'ontogenesi, cioè le fasi di sviluppo del singolo essere vivente, consiste per l'appunto nel passaggio dal linguaggio come esperienza pubblica o interpsichica al linguaggio come esperienza singolarizzante o intrapsichica. Quindi viene prima il collettivo, viene prima il sociale e poi viene l'io. Questo processo a mio avviso si compie allorché il bambino si avvede che il suo atto di parole non dipende solo dalla langue determinata, che per tanti aspetti assomiglia a un liquido amniotico o a un anonimo ambiente zoologico, ma è in relazione anche con una generica facoltà di parlare, con una determinata potenza di dire, che non si risolve mai nell'una o nell'altra lingua storico-naturale. Cioè, quindi la potenza che è. La progressiva esplicitazione del rapporto. Anche il posizionamento del bambino all'interno del sistema. E infatti poi la terza. Salto, la terza nozione di pre-individuale, lui vabbè dice, è il rapporto di produzione dominante, che però poi dentro ci può mettere qualsiasi cosa ovviamente. Si ha dunque a che vedere anche con una realtà pre-individuale squisitamente storica. Il capitalismo sviluppato, bla bla bla bla. Mm-hmm. Certo. Pre-individuale l'insieme delle forze produttive, dice. Se il rapporto di produzione dominante è Gigi D'Alessio è il tuo liquido amniotico. Sì, sì. Cioè tu ti senti meravigliosamente a tuo agio con Gigi D'Alessio, poi un giorno scopri Digi D'Alessio o come si chiama? clap clap. Poi un giorno scopri clap clap e questa cosa ti deterritorializza e allora magari dici clap clap è figo oppure clap clap è una merda. Ti posizioni, cioè ti riterritorializzi, cioè il territorio ormai è fregato. Scopri che Gigi D'Alessio non è l'universale, c'è altro. E quindi sei in una segmentarietà binaria in questo caso, cioè sei, diciamo, costretto a fare una scelta e quindi ti posizioni come meglio credi all'interno di un sistema. Ecco. Volevo tornare a quel passaggio di Merlo Ponti perché ha la questione del corpo sensoriale, però non so se sono capace di formularlo perché sono passate un sacco di cose. Allora, pre-individuale come corpo biologico e il passaggio di Merlo Ponti che era come muovere oltre il corpo biologico, e poi tu penso in quel punto lì dicevi alto, quindi il corpo, quindi il corpo come una roba che ti è data e che ti rende comune indifferenziato universale fino a che trovi il sì, o comunque ti trovi tu una grammatica nella quale, con la quale risuonare, che ti codifica in un certo modo e quindi ti individui. No, diciamo che aspetta. Perché anche a me non mi torna più, era come se però ci fossero due passaggi logici diversi nel togliersi gli organi, cioè nel rifiutare il corpo biologico per trovare un'individualità, per divenire un'individualità, quindi divenire un soggetto, e il passaggio che, e quindi corpo senza organi, che anche tu dicevi prima, flusso di quanta, e la questione invece di Artaud che in tutta quella roba lì, togliendosi il corpo si toglieva Dio, quindi lui si toglieva il corpo come significato, e tutto questo per arrivare, cioè per me c'erano due proprio modalità logiche contrapposte, però adesso non riesco più ad afferrarle perché devo leggere accorto. Tutte e la questione di Dio anche sulla questione di Cartesio di prima, e quindi il fatto che adesso poi ricorre a Dio per fare quello, io Cartesio non l'ho letto, per cui vado a tentoni, che però mi sembra l'opposto di quello che fa Nietzsche nel momento stesso in cui parla del vuoto di valori, e quindi il corpo senza organi tra virgolette come la volontà di potenza, come il desiderio. In mia conclusione identifico il corpo senza organi con la volontà di potenza. Non so se sono stata chiara per nulla, perché quel passaggio lì, cioè troppi passaggi che hanno avuto un impatto proprio. Scusa, ma quando lui fa riferimento al sì, cioè si dice questa, però quella diciamo è la dimostrazione del pre-individuale, non sì, è un sì impersonale. È un sì impersonale. Ah, è un sì impersonale, ma no, così per, cioè non è un tipo di individuazione, no, esattamente. Ah, okay, è un sì impersonale. Va bene, va bene. E poi nella generica capacità di dire, parlare. Okay. Okay, okay. No, poi su Cartesio cioè è la fondazione del soggetto, no? Cartesio. Cioè proprio anch'io ho fatto molta fatica, cioè non è che l'ho solo studiato dopo Brignani, poi non ho manco dato quell'esame, quindi non lo so, però che era quello di Tega tra l'altro. Però cioè, è proprio la fondazione del soggetto moderno, Cartesio, cioè il testo di Toni. Neri su sta roba che sì. E quindi però no, il punto che dice, cioè sì, lui fonda il soggetto come cogito e ok, però lui a un certo punto è un soggetto politico, dico, tra l'altro proprio come, cioè, scusa, finito. Sì, poi nella lettura di Neri sì. C'è il discorso sulla borghesia, io l'avevo letto quel libro anni fa, non mi ricordo niente praticamente, però sì. Perché no? No, pure Cartesio, non è che me lo ricordo in meditazione, non è che me lo ricordo bene, comunque mi ricordo chiaro che lui a un certo punto si può, sai, il metodo cartesiano, lui dubita e quindi... Cioè, sì, dubitare però per no? A un certo punto Cartesio si domanda, va bene, ok, siamo qui, però la realtà esterna come fa a esistere a questo punto? Però è un dubitare per riaffermare il fatto che cioè almeno se non mi ricordo male, è proprio il fatto di dire ok, dubito talmente tanto, però poi per riaffermare che è il soggetto che crea la realtà, o mi ricordo uno sbarione, vabbè, adesso si può andare a fare la specie sulla... È un po' così, Cartesio. Nel senso, Cartesio riduce, eccetera, il dubbio è riduzione. Allora, per non concludere così, cioè che sono io a creare il mondo, cioè chiaramente non è idealista, postula l'esistenza di Dio. Cioè ricorre, fa sto trick filosofico in cui, poiché esiste Dio, poi veramente sarebbe da rileggere le meditazioni, poiché esiste Dio, allora esiste anche la realtà esterna e non sono io che la costituisco. Se togliamo Dio? Crolla un po' tutto l'edificio cartesiano. Rimane. Cioè siamo nel mondo senza io, nell'io senza mondo. Mm-hmm. Esatto. Okay. Che è? Che è l'abisso, che dice. Sì, esatto. Sì, qui ti seguo un po' meno, magari. No, perché manco un pezzo che perché poi io inizio lo leggo sempre molto morale, però magari. Magari no. Perché poi per lui la morale è Dio stesso, no? Per cui nel momento in cui elimini tutti i valori, elimini la figura di Dio. Comunque appunto mi manca un pezzo, ho perso. Io guarda, in generale volevo dire, provo a recuperarlo un po', che allora la grammatica, se ho ben capito cosa intende per grammatica, che è diciamo il codice, cioè il codice non è che lo, cioè secondo Lacan, appunto, se ne parlava la prima volta, il codice lo acquisisci con la risoluzione dell'Edipo e non prima. Althusser, per esempio, carica tantissimo questa cosa e dice prima l'uomo già prima. No, Althusser dice l'uomo prima dell'Edipo è un animale, non è un uomo. Ricordo, siamo negli anni 60, siamo a quando Lévi-Strauss diceva qual è la differenza fra natura e cultura? Il tabù dell'incesto. Ecco, siamo lì. E Althusser dice il bambino prima della risoluzione edipica è un animale di sembianze umane. Poi a un certo punto arriva l'Edipo, tu interiorizzi il significante, cioè il codice, e diventi uomo. Perché diventi uomo? Perché ottieni una posizione all'interno dell'inconscio strutturale, cioè dell'intersoggettività, cioè del codice, cioè a questo punto della grammatica. Allora io direi però, senza fissare il momento, però è opinabile, direi che dal momento che nasci, secondo me insomma un po' da subito acquisisci la grammatica. Cioè la grammatica è intesa come, cioè il corpo senza organi è il cieco che guarda, no? Dal momento in cui questo cieco vede una luce e distingue una sinistra e una destra da questa luce, cioè la lavagna vuota è il corpo senza organi. Perché? Se io faccio un puntino sulla lavagna, comincio a strutturare questo corpo senza organi. Perfetto, ecco il passaggio. Allora, il corpo senza organi è nel pre-individuale? No. Perché no? Perché nella mia testa è la volontà di potenza, quindi è quello che rimane dell'individuo nel momento stesso in cui mi strappo indosso gli organi, come il rifiuto di questo indifferenziato mondo universale e di tutti i valori che gli sono stati appiccicati. E quindi Artaud che dice sono mio padre, mio figlio, mia sorella, mia nonna, mio... Sì. Sono figlio di me stesso. Io sono opposto. In senso opposto. Cioè nel senso che non è uno stato il corpo senza organi, è un fare un corpo senza, fare il corpo senza organi, ed è il tentativo continuo di raggiungere questa potenza pura, appunto. Esatto. Volontà di potenza. Cioè, sì, o il però corpo senza organi non è una cosa, cioè il corpo senza organi è: io compro un libro, non l'ho ancora letto, è un corpo senza organi. Poi lo apro e vedo che la prima parola è telefono. E già ho un indirizzo, cioè già ho una strutturazione. Io vedo il corpo senza organi un po' più come il dubitare di tutto al punto di che c'è qualche cosa da affermare, una soggettività, e come appunto Nietzsche, quando dice chi non sta seduto sul bordo non saprà mai, eccetera eccetera, cioè tutti i valori che ti sono stati detti, tutti i codici che... tutta la grammatica che hai letto, a quel punto non risuoni più con lei, e l'unica cosa che risuona è l'affermazione del soggetto, senza nessun codice più sulla tua pelle. Sì. Quindi quello che legge la prima parola, l'ultima, tutti i libri del mondo, poi dice tutti i valori. Sì, sì, trasvalutazione. Trasvalutazione nell'affermazione di e sé. E poi affermazione, sì. O trasvalutazione come effetto dell'affermazione del soggetto. Sì. Secondo me no. Cioè non è così, nel senso, corpo senza organi non è questo. E tra l'altro, se stiamo sul pezzo Deleuze Guattari, non si può mai parlare di un'affermazione del soggetto. Cioè non si può proprio parlare di soggetto. Certo. Perciò corpo senza organi. L'antedipo, quindi non mi ricordo adesso la citazione precisa, ma quando dice, quando invoca Zarathustra, questi uomini o sono come Zarathustra, qualche cosa del genere, e quindi sono certo... che complicato, perché adesso va sul molteplice, effettivamente, è vero quello che dici, quindi non si può parlare di affermazione del soggetto perché va sul molteplice, però è un processo affermativo di sé con il molteplice. Io vedo quello come corpo senza organi, il desiderio potenza, però appunto sì, allora diciamo che corpo senza organi non va confuso col desiderio, secondo me, nel senso, il corpo senza organi è il grado zero, il desiderio invece è territoriale, cioè il desiderio è sempre codificato, sempre codificato, e il desiderio è produzione, perché questo codice non è un sistema astratto, quello che si diceva prima con gli strutturalisti, ma è un qualcosa che viene prodotto dalle vite che materialmente lo producono, ok? La politica molecolare produce, sì, fa la politica molare, no? Ecco. Il desiderio è questo. Cioè il desiderio è la produzione della massa all'interno di un contesto di classe, come dire, per usare le parole di prima. Ecco. E il desiderio, che è mosso quindi da energie molecolari, viene compreso, il famoso compreso, sotto categorie molari. Il corpo senza organi invece è il grado zero, cioè è il non strutturato, la lavagna vuota, il silenzio, e soprattutto non è che fai un corpo senza organi, però Cioè non è che fai un corpo senza organi per contrapposizione a una strutturazione. Perché per contrapporti a una struttura, tu fotti la struttura, cioè tu tagli la struttura e la deterritorializzi. In senso dello sguatteriano. Dopodiché penso, dovrei rileggermi il piano del corpo senza organi perché non mi ricordo una minchia e quindi magari sto dicendo cagate. Però, insomma, così a braccio direi che è un po' così. Cioè direi che corpo senza organi e struttura non si contrappongono. Cioè si contrappongono, però non è che tu per uscire dalla struttura poni un corpo senza organi. Certo, certo. Per due motivi. Primo, non puoi uscire dalla struttura. Secondo, non puoi porre un corpo senza organi. Ma la struttura è trasformazione ed è produzione reale. Cioè lo stato è fatto di persone, in sostanza. E se tu uccidi quelle persone, uccidi lo stato. Sono grossolani. Vabbè, poi lo fermo quando arriviamo nel piano. E mi vengono in mente due cose. La prima è il fare il corpo senza organi, cioè appunto io riparto da Artù e Artù appunto vuole fare un corpo senza organi non in logica binaria o dialettica per imporsi contro Dio, certo. Però insomma diciamo che Dio non mi è simpatico e tutti i valori che attraverso Dio sono lo determinano o lo definiscono. In questo senso io penso che intenda proprio di farsi quale corpo senza organi. Per farla finita, basta, esatto. Niente bocca, niente laringe, basta. Col giudizio di Dio, corpo comunque come imprinting del giudizio di Dio, come desiderio, è vero, mi sa che quando dici il corpo senza organi non è desiderio, penso sia vero, allora magari non lo so, in questo momento potrei dire o volontà di potenza o di venire. Penso anche a quando Bibbo diceva, o ha scritto da qualche parte, noi negli anni 70 ci siamo sbagliati a pensare al desiderio come un flusso perché il desiderio è un campo. E questa roba del campo io l'avevo capita poi non la ricordo più, cioè non sono in grado, ci ho ripensato e non sono in grado di tornare al perché, però la spiega abbastanza bene da qualche parte, mi pare sul libro di Quattari di 5-6-7 anni fa. Perché se no se è un flusso succede quello che dici tu, cioè la struttura mi cattura, che è Baudrillard alla fine. Cioè viene intercettato da una definizione, viene catturato da una definizione. E pertanto lui diceva il desiderio non è un flusso, è un campo. Però la cattura non è una cosa negativa, cioè non è che noi dobbiamo evitare le catture. A un certo punto, cioè. Il mio flusso di desiderio erotico viene catturato da un essere corporeo col quale faccio l'amore. Stasera ce l'ho con Leo, secondo me. E questa è una cattura. Cioè la vespa e l'orchidea, il concatenamento trasversale e la sessualità interspecie, è una forma di cattura. Dopodiché esiste, l'abbiamo letto prima, connessione e congiunzione. C'è un processo per il quale una linea più deterritorializzata surcodifica e territorializza l'altra e si pone come sistema maggiore o macro insieme surcodificante, molare, eccetera, e un altro tipo di flusso dove c'è un divenire comune. Cioè c'è una deterritorializzazione che si deterritorializza. Però, cioè, non è che c'è la soluzione, perché poi quel divenire comune si incontrerà con una congiunzione che, insomma, così, perché il mondo diviene, perché i flussi flussano, ecco. E il mondo mondeggia. È mondeggio. Quindi il corpo senza organi non è un punto d'arrivo, altrimenti serve un altro corpo. Ah. È quando tu cerca di... L'ho visto a un certo punto, citerai tutto poi colombiano messicano che diceva che questa civiltà che dissanguava l'uomo fino a togliere il concetto di Dio. Lui non è che si arriva, ci prova, nel fare magari pazzirà anche, però ci prova, lo fa performando. Lo fa quello che abbiamo sentito la radio, lo faceva da teatro, cioè, non penso che avessi in mente un punto d'arrivo, non esiste, non penso che esistesse nella tua testa un concetto di corpo sensorio, se non quello di poter fare, quello di trovarsi, quindi appunto di abbandonare il giudizio di Dio, di spazio. Sì. Cioè il processo è l'atto di, non è tanto la volontà di potenza, è come la tavola, a me viene la tavola aristotelica di sera, mentre è in sì, non è tanto la tavola, è l'atto di, è il pensare di scriversi qualcosa, mentre lo fai, il gesto. Allora, leggiamo un po'. Sì, sì, vai. Allora, corpo senza organi è il soggetto. Non è assolutamente una nozione, un concetto. Piuttosto si tratta di una pratica, di un insieme di pratiche. Il corpo senza organi non lo si raggiunge, non lo si può raggiungere, non si finisce mai di accedervi, è un limite. Si dice, che cos'è il CSO? Ma si è già su di esso, trascinandosi come un pilocchioso, brancolando come un cieco, correndo come un pazzo, vabbè, eccetera. Il 28 novembre 1947 Artaud dichiara guerra agli organi per farla finita col giudizio di Dio. Perché legatemi se volete, qui citano, ma non c'è nulla che sia più inutile di un organo. Fine della citazione. Si tratta di una sperimentazione che non è solo radiofonica, ma è anche biologica, politica e attira su di sé censura e repressione. Corpus e socius. Politica e sperimentazione. Non vi lasceranno sperimentare nel vostro cantuccio. Il CSO è già in movimento non appena il corpo ne ha abbastanza degli organi e vuole lasciarli cadere oppure perderli. Lunga processione. E qui fanno un elenco. Va bene. Allora. Vabbè, qui io me lo dovrei rileggere proprio. Adesso sto vedendo un po' le parti che avevo sottolineato. Ah no, dicevo Zarathustra, invece no, è zero. Allora, qui sottolineo di più. Ah, uovo tantrico, voilà. L'uovo. L'uovo. Allora, gli organi perdono ogni costanza che si tratti della loro ubicazione o della loro funzione. Un po' ovunque appaiono organi sessuali, zampillano ani, si aprono per defecare e poi si richiudono. L'organismo intero cambia struttura e colore, variazioni allotropiche regolate al decimo di secondo. Questa è una citazione di Burroughs, compagno Burroughs. Uovo tantrico. In ultima analisi, non è forse l'etica il grande libro sul CSO? Gli attributi sono i tipi e i generi, vabbè, ok, niente. Chiama Spinoza? Ah? Cioè rimanda Spinoza? Sì? Qui dicono anche, i drogati, i masochisti, gli schizofrenici, gli amanti, tutti i CSO rendono omaggio a Spinoza. Il CSO è il campo di immanenza del desiderio, è il campo di immanenza del desiderio, il piano di consistenza proprio del desiderio, laddove il desiderio si definisce come desiderio di produzione, senza riferimento a qualsiasi istanza esterna. Mancanza, vabbè. Il prete ha lanciato la triplice maledizione sul desiderio, vabbè, qui ok. Il piano di immanenza del desiderio. Sì. Piano di immanenza è inteso come il Deus sive natura, diciamo. Parla breve. È Spinoza. Puoi rileggere. Sì. Allora. Quale? Quella lì dell'uovo? Sì. Fra? Quella del piano di immanenza, perché poi va sì. A continuare. Allora, leggo tutta la roba che ho sottolineato qui. Il problema di una stessa sostanza per tutte le sostanze, di una sostanza unica per tutti gli attributi diviene. Esiste un insieme di tutti i CSO? Ma se il CSO è già un limite, Che cosa bisogna dire dell'insieme di tutti i CSO? Il problema non è più quello dell'uno e del molteplice, ma quello della molteplicità di fusione che supera effettivamente ogni supposizione dell'uno e del molteplice, ok? Molteplicità formale degli attributi sostanziali che costituisce l'unità ontologica della sostanza in quanto tale. Continuum di tutti gli attributi e generi di intensità in una stessa sostanza e continuum dell'intensità in un certo genere in uno stesso tipo attributo. Cioè, flusso, no. Continuum di tutte le sostanze in intensità, continuum. I drogati, i masochisti, gli schizofrenici, gli amanti, tutti i CSO rendono omaggio a Spinoza. Il CSO è il campo di immanenza del desiderio, il piano di consistenza proprio del desiderio, parentesi, là dove il desiderio si definisce come un processo di produzione. Ha volontà di potenza, cioè, non voglio paralizzare, però mi sembra questo. Là dove il desiderio si definisce come un processo di produzione. Sì. Sì, però questo non è il corpo senza organi. Perché il corpo senza organi è il campo di immanenza del desiderio. Cioè il desiderio si colloca dove si presenta a se stesso. No, è il campo di immanenza nel senso che il desiderio si colloca all'interno del corpo senza organi. Cioè all'interno del campo di immanenza. Allora, il corpo senza organi è il campo di immanenza del desiderio o viceversa? Il corpo senza organi è il campo di immanenza del desiderio. Sì. Campo o piano? Campo. Sì, non c'è molta differenza alla fine. Cioè piano è, intendilo tipo ecosistema. Sì, ritorna a quella cosa che io lo penso sempre come un flusso. Quindi ritorna a quella cosa del campo. Comunque mi sembra di capire, ma poi appunto è tutto da discutere, che è laddove il desiderio si riconosce in se stesso, più che in tutto ciò attraverso il quale è stato definito, e pertanto si definisce come un processo di produzione, che è la stessa cosa che direbbe, che io associo quantomeno, probabilmente non è la stessa cosa, ma io l'associo a il lavoro di Nietzsche su ritrovare se stessi come, come la volontà di potenza che diventa il processo produttivo di valori, ergo la trasvalutazione. Ok, il che magari è anche molto molto impersonale e post individuale, diciamo. Era quello il nodo di prima, perché prima quando dicevamo la lavagna, la parola, sì, era come se tu lo vedessi come punto di partenza e invece come punto di arrivo della soggettività. No, punto di arrivo, perché era una cosa che non si arriva mai a divenire, ma è un tentativo di arrivare al luogo in cui la soggettività produce se stessa. O il soggetto che si stesso desiderio. Senti, secondo me il problema è sta cosa della soggettività. Nel senso. Perché non ce n'è? Che poi è anche il mio progetto di dottorato, sì. Sì, che è una merda perché nessuno lo accetta. Però nel senso, allora, sicuramente credo sia molto sbagliato ricondurre il desiderio a un soggetto, ok? Però c'è un viceversa. Allora, diciamo che c'è un campo attraversato da singolarità. Cosa sono queste singolarità? Persone, situazioni, ok? Cioè, un campo di flusso. Forze. Ok. Ah, perché te c'hai in testa forze attive, reattive, quella roba lì? Ma io c'ho sempre in testa, però è più facile dire forze che singolarità, perché singolarità mi rimanda a qualche cosa di già costituito. Sì, ok. Sì, quando in realtà lo è e non lo è. Flussi, diciamo flussi. Molecole. Ma anche forze. C'è Nietzsche e la filosofia, una roba fighissima, bellissima, che dice: è impossibile interpretare il senso di un fenomeno se non scopriamo quali sono le forze che lo governano. E dietro le forze c'è sempre un soggetto. Che per, ecco, no. Per, in, vabbè, invece la filosofia sì. Ah. E che volendo poi, banalizzando e tirandolo via da una cosa così complicata come mille piani, diventa il capitale come soggetto, lo stato come soggetto, oddio come, oddio come un soggetto. Il soggetto interpretatore. Ecco. Allora, diciamo che il soggetto, in questo senso, è l'istanza di potere sul codificante molare del cazzo che territorializza tutto. Benissimo. Ok? E mentre invece i processi di soggettivazione, diciamo, Guattari ne parla bene su Caosmosi, per esempio, però anche lì dovrei rileggerlo. I processi di soggettività invece non sono riconducibili a individui, ma sono concatenamenti, in sostanza, lo faccio breve. Ecco. Per farla ancora più banale, se io nego una cosa, vaffanculo a Beppe Grillo, non lo so. Se io nego un qualcosa, si presuppone un atto di interiorizzazione da parte mia di quel qualcosa e una negazione, quindi uno schieramento, eccetera. Ok? Ok. Però questo atto di, cioè, io lo interiorizzo non in un soggetto me formato in se stesso, ma lo interiorizzo in me che sono a mia volta un campo di attraversamento di una molteplicità infinita molecolare di forze che si compongono tra loro, che non hanno una direzione, eccetera, eccetera. Ok? Quindi io sono questo. Vivo in un campo sociale che è altrettanto, e allora quello che vorrei fare io è togliere un po' il mio involucro. Ok? Nel senso, cioè, se io sono attraversato dal campo di forze e il campo sociale è il campo di forze, allora chi è questo io? È direttamente innestato all'interno del campo di forze. Di conseguenza, la mia produzione desiderante è produzione sociale. Il mio desiderio è produzione reale. Perché? Perché è un campo di forze che risuona, che è fuga o riterritorializzazione all'interno del macro campo di forze. Se io ho letto Il giovane Holden, io sono entrato in interazione, io ho incontrato quel libro, e se ho mangiato quella mela, io l'ho incontrata e questa cosa mi ha cambiato. E questo incontro ha ridistribuito le singolarità che compongono l'ecosistema mondo, diciamo, no? Ecco, il senso è un po' questo. E quindi, perché ricondurre tutto a un'istanza soggettiva? Perché l'istanza soggettiva, quando dici io faccio così, questo è il mio codice, presuppone un potere, cioè, nel senso, perché lo Stato, perché Dio o l'io? Perché devi imporre un codice? Cioè, devi dire, tu, individuo umano, devi essere segmentato in questi sensi. Perché? Perché il codice impone questa segmentazione. E per far funzionare la società ci vuole questa segmentarietà rigida. Ecco. Questa cosa si giustifica a partire da un principio, cioè quell'Edipo, per esempio, che surdetermina tutto il resto. L'albero, ma di fatto rizoma. Quindi sì, ci sono degli alberi, però è tutto rizomatico, cioè le molteplicità sfuggono. Banale. Però il corpo senza organi è esattamente il tentativo di liberare tutta questa produzione. Cioè, nel momento che fai a meno di tutte queste dell'io inteso come sì, costruzione individuale e soggetto cartesiano, per dirla un po' per i termini di prima, fai questo tentativo qui, no? Cioè la liberazione della, sì, di questo tipo. 10 minuti fa ti avrei detto no, adesso però forse sì, forse sì. No, penso che a questo si faceva riferimento. Ora lo capisco un po' meglio. Cioè, come uno che si toglie tutti gli strati fino al punto in cui è capace di prodursi da sé. Sì. Dove produzione da sé vuol dire sempre stare dentro questi flussi. Una cosa sicura, certo, abbiamo citato Battaglia. Per un desiderio tuo, per una volontà di potenza tua, o per una cosa che risuona con te, per una produzione tua. Però nel senso, sicuramente togliere gli strati significa dispersione del soggetto e quindi morte. Del soggetto come soggiogato o soggettivato dall'esterno. Certo, è morte di un mondo, però è la morte di un mondo che ti definisce tuo malgrado, o comunque che ti definiva. Sì, però cioè, il punto è che non esiste un mondo non codificato. E dal momento stesso in cui tu ti spogli dei codici, crei codici. Ma li crei tu. Ah. Ma li crei tu. Sì, sì, sì. Mm-hmm. Però nel senso, sei... Cioè, non esiste appunto un grado zero del codice. Esiste una perpetua e costante trasformazione del codice. Perché? Perché la politica è molare, però la fa il molecolare. No? Cioè il flusso di quanta che si trasformano crea macro insiemi molari diversi, ecco. Non so se c'è un punto zero del codice, però è per quello che penso sempre a Nietzsche, a Battaglia, quando parla della vertigine e quindi dell'io senza mondo e dell'io che lo produce, però deve prima, certo, non è un grado zero, è un processo di divenire, però è un processo di divenire che produce soggettivazione mano a mano che si scrolla di dosso un mondo che altrimenti l'avrebbe prodotta. Sì, io questa cosa di connessione poi fra Deleuze, Guattari e Battaglia mi stona proprio molto, che poi Battaglia è anche molto dialettico, no? È molto il culmine, l'abisso. E poi Battaglia. Cioè, siamo molto vicini. Cioè Battaglia parte da sto presupposto, dice. Il culmine è lo spreco di se stessi, mentre l'abisso è la conservazione. Ecco, mi torna in mente, in Battaglia c'è una contrapposizione netta fra la dépense, la ferita che causa la lacerazione, la disgregazione dell'essere in sostanza, cioè il momento di dispersione. Io mi taglio, tutto esce, io muoio, morendo mi ricongiungo al tutto. Mentre la vita umana, avida, costituisce l'individuo sull'allontanamento da questo. E quindi, ecco, una certa morale del declino intesa come la morale un po' piccolo borghese del piazza, un po', cioè, da Scrooge, che accumuli, che porti avanti così, ecco. Invece in Deleuze Guattari non c'è questa cosa, nel senso, a parte che non c'è una contrapposizione dialettica, e poi non c'è l'idea di un individuo che si distacca dal tutto, perché l'individuo è il tutto, cioè la dispersione. Sì, beh, c'è questa dialettica, mi sembra l'idea, c'è questa cosa del... E poi, nel senso, io non ho mai letto tutto, cioè non ho letto tutto delle sguarterine. Credo che non ci sia questa frase che sto per dire, però potrebbe esserci, è una cosa che ho pensato io, però è sicuramente delle sguarteriane, cioè viene da lì, e da Foucault, eccetera, cioè che l'individuo, non è che sto dicendo chissà che è, però l'individuo, noi siamo una società individualista, a livello pop del cazzo si dice bisogna ritornare a una comunione eccetera, ma noi siamo comunione, l'individuo non esiste, è stata costruita una cultura dell'individualismo, cioè è stato costruito un modo di pensare che ci fa partire dall'individuo, ma di fatto che cos'è l'individuo? Cioè Tommaso Aveta è le scuole che ha fatto, sì, le persone che ha conosciuto, le sedie su cui mi sono seduto, che mi hanno insegnato a sedermi così e non così, no? Cioè, questi sono codici, no? Che ti strutturano. E quindi il corpo senza organi. Uno si siede come cavolo vuoi. Come cavolo vuoi, però quel cavolo vuoi è sempre un codice su un codice. E però appunto. Nel senso. Da dove. Però avresti finito di manetta dalla produzione. Cioè. Sì, sì. Ma è sempre in manenza di sì, sì, no, però attivo reattivo, attivo reattivo, maggiore minore, riterritoriale, congiunzione e connessione, quello di prima. Ma ho capito sempre. Se la mia linea di deterritorializzazione impone una produzione di forza attiva all'interno del campo di forze e quindi una mia capacità di determinare attivamente quel cazzo di campo di forze, io sono una linea maggiore, c'è poco da fare. Dopodiché magari faccio delle cose fighissime, cioè non è che sono il nemico da combattere, cioè nel senso, però sono una linea maggiore ed essendo una linea maggiore magari sarò segmentato su una segmentarietà binaria che mi pone in dialettica con qualcun altro. Se io combatto lo Stato sono contro lo Stato e lo Stato mi risponde per forza. Magari su una segmentarietà circolare, insomma, quel discorso lì. Nell'ultimo capitolo non è per farla finita col giudizio di Dio, è per farla finita col giudizio, che effettivamente è un passo ancora prima. Il giudizio di chiunque sia, per farla finita col giudizio di chiunque sia, e quindi per arrivare a quel punto in cui il soggetto o il processo di soggettivazione nasce dal desiderio del soggetto stesso, appunto è trovare quel cavolo di punto, perché comunque quel punto lì, cioè, scatta il rifiuto. Cioè hai detto, poi non ho seguito, però hai detto l'intervento prima è una cosa fighissima, cioè cos'è che hai detto, che il soggetto si produce producendo realtà, una cosa del genere, no? Vabbè, è chiaro il concetto? Sì, sì, sì, sì. Perfetto, io ci credo moltissimo in questa cosa. Allora, quel punto da cui partire per strutturare il desiderio non sei te, cioè non è un punto soggettivo, è questo il punto. Cioè il desiderio non è mai, cioè è un taglio, sì e no, nel senso, allora c'è il flusso e il desiderio è il flusso. Poi ci sono eventi che tagliano questo flusso e lo deterritorializzano. Io pensavo di essere felice, poi ho scoperto, poi ho letto un libro e ho scoperto che la mia vita fa schifo e quindi la devo cambiare. Evento taglia e deterritorializza, cioè sposta la direzione del flusso. E non c'è un punto in cui il soggetto individuale dice adesso dico io come vanno le storie. Ok? Proviamo. C'è tutto il ballo del concatenamento, come dicevamo anche prima. Esatto, cioè, esatto. E poi il concatenamento è tutto. Cioè, Spiegatemelo. Ecco, questa è una domanda. Aspettiamo. Che si era posta anche il tuo amico Simone. Esatto. Ma come si fa a fare politica questo lavoro? Per cui c'è un po'. Ecco, secondo me, allora io ci pensavo, no? Lo diceva anche Simone appunto tempo fa. Secondo me nel è senso. È sbagliato il concetto di politica. Esatto. Basta. Compriamo una PlayStation. Aspettiamo il completamento. E no, secondo me piccoli obiettivi. Già una cosa successa. Sì, ma questo cioè, a ciclo piccino riesco a tagliarmi la faccia di carne questa sera. Hai una settimana? È un po' malinconico. No, e poi nel senso, però, i macro insiemi molari. Cioè, allora io vorrei dire una cosa in modo più chiaro possibile. Il molare la riterritorializzazione, eccetera, la cattura, non sono concetti negativi, non hanno una connotazione negativa. E la fuga, il corpo senza organi, la deterritorializzazione non hanno una connotazione positiva. Ok? Cioè, questo... E probabilmente Villa Bianchi non è uno strumento di lotta politica. Direi proprio di no. Scusa, non hanno una connotazione positiva o negativa. Quindi raga, il seminario sì, però perché la fai finita con i valori? Perché dipende da che valori hai messo in campo. Perché se io ti catturo con i valori, che ne so, di qualunque cosa sia, perché effettivamente tutti i valori comunque sono relativi, però se ragionassimo in termini marxiani classici, marxiani ortodossi, quelli che detestiamo, ma negli anni 50 poi comunisti classici potevano dire: se io ti catturo nel comunismo gli do un'accezione positiva, io alla cattura gli do un'accezione negativa. Comunque la cattura diventa un'accezione della tua volontà, va un lasciarti interpretare da un'altra volontà. Cioè va contestualizzato quando è stato scritto, ovviamente. Sì, però nel ma senso questo, anche scusa, lì... La diceva anche Bifo sta roba, no? Nella prima lezione diceva, si legge Foucault e Foucault vi dice che c'è la prigione, e poi però invece c'è la resistenza individuale. E dice, io per anni, fino agli anni 90, ho letto Mille Piani convinto che questo era il testo delle soluzioni, poi invece ho capito che è il testo del problema. Cioè, secondo me è un po' questa la questione che sta sotto, perché voi non è che trovate qui la soluzione, voi casomai trovate il problema. Infatti faceva riferimento anche alla questione della connessione, no? Che si usa questo termine, ma questo termine poi è esploso, perché loro non avevano in mente quello che scrivono, però paradossalmente è proprio, cioè ancora il problema di prima è ancora più forte, perché tu utilizzi un termine che è totalmente del capitale adesso, quindi non, bisogna trovarne un altro, però sono emblematico. Però come lo leggiamo adesso, io non voglio dire la mia opinione, però riportiamola a te, come la leggiamo Deleuze guattarianamente, che a un certo punto c'è internet, in internet nascono delle istituzioni, nel senso deleuziano già stato citato, istinto istituzione, Google, Facebook, eccetera, e queste cazzo di istituzioni surcodificano. No, certo, sì. Ok? E quindi creano insiemi molari. Questa cosa può essere negativa o può essere positiva. Però adesso io ho usato Facebook, quindi una roba grossa. Però nel senso, anch'io surcodifico un qualcosa, cioè, come dire, la cattura. Leggo La Vespa e l'Orchidea, so tre righe. Sì. Dopodiché è chiaro che c'è una cattura del capitalismo, e ne parlano molto nel capitolo sulla cattura, però cioè il punto è che le catture avvengono, le riterritorializzazioni avvengono, sì, sì. Dopodiché c'è un campo, un ecosistema, chiamiamolo come ci pare, all'interno del quale noi prendiamo posizione. Noi come chi? Come soggettività. Soggettività di che? Di individuo, di classe, di massa, di Bartleby, Leo, cioè, no? Quanta soggettività di Ilaria risuona in me? Un'infinità. Quanta soggettività di mia madre? Un'infinità. Però mia madre a sua volta è la risonanza di un'infinità di cose, eccetera. Quindi cioè non puoi mai ridurre a un individuo. Però sta di fatto che io vivo in un mondo, in maledetti concatenamenti concreti, cioè cose che succedono, lavoro che c'è, che non c'è, eccetera. E quindi io mi devo posizionare. Cioè, e se a un certo punto io devo guadagnarmi da vivere, io devo fare in modo di quagliare, magari devo catturare certe cose, devo fare in modo che i codici dispersi che mi ruotano intorno riescano a concretizzarsi, piano di consistenza, in un concatenamento che mi dà da mangiare, cioè che riesco a imporre una mia determinazione, un mio codice, a surcodificare una serie di cose. È sbagliato? No, cioè non è che mi devo disperdere. Però, nel senso, loro stanno descrivendo un po' una meccanica di come funzionano queste cose, ecco. Posso dire una cosa finché la trovi? Sì, no. Cioè, perché poi questo libro, appunto, Fiamma, è stato scritto nel 1980. Sì, pubblicato nell'80, scritto qualche anno prima. Quindi, diciamo, per arrivare al 2014 è azzarato. Il soggetto di ritorno visibile durante la crisi è il capitale, in questa crisi, il capitale come soggetto concentrato, per quanto governance astratta, tutto quanto, però. E a quel punto il flusso di concatenamenti, che da un lato è più ampio che mai, perché comunque la produzione di conoscenza è più elevata e distribuita, variegata che mai, si scontra con una produzione di soggettività che rispetta dei criteri, dei valori, dei principi, delle misure ben definite. E quindi questo infinito concatenamento arriva a un punto di frizione, parlo proprio come carne, a questo punto di frizione ci arriviamo più o meno tutti, cioè laddove tu comunque per competere e guadagnarti da vivere devi continuamente autosfruttarti, arrivi a un punto che tu dici non gliela faccio più. E a quel punto lì i valori rispetto ai quali tu ti costruisci, ti sei costretto a costruirti, entrano in crisi. Parlo però il problema qual è? Il punto è solo quando stai sull'orlo della fine, questo, o riesci a produrre un processo di disidentificazione, esatto. Il punto è quando arrivi, esatto. Per cui cioè, esatto. Metti in discussione questa cosa. Poi questo ragionamento, esatto, introduce anche una natura che viene mortificata continuamente e che si manifesta appunto solo. Ma sì, perché non ce la faccio più, cosa vuol dire? Che ho raggiunto, che finora sono riuscito a piegarmi, però poi sono quasi arrivato al punto di rottura. Cioè il punto è quando è che avviene, quando avviene quell'evento o incontro, sempre in termini dello squattariani, siamo sui leviani, che deterritorializza, viene a un punto di rottura, viene prima che, cioè viene, arriva, prima o poi arriva, se arriva. L'azzarato, io ho letto solo il primo e non il governo, però nel primo cosa dice? C'è un capitalismo che agisce per produzione di soggettività, nello specifico il debito, quindi produce soggetti in un certo modo, perché adesso non è che non ricordo bene, perché il soggetto deve avere questo debito interiore per, che lo porta a condurre la propria vita in un certo modo, e cioè ad alimentare questo grande apparato di cattura che è il capitalismo contemporaneo, perfettamente in linea. Il punto è che il capitalismo contemporaneo su codifica è un albero sicuramente, però come dire, da un punto di vista storico non è l'assoluto, cioè è un insieme di rapporti di forze che producono un certo tipo di realtà. E il fatto che io mi oppongo, per esempio, cioè che un soggetto X si oppone al capitalismo contemporaneo,